quali alternative esistono per abitare la città e non solo. E quindi, insomma, non so, non hanno preparato, da quanto ho capito, un percorso per voi ben preciso, ma divagheremo intorno al tema. E il tema qual è? Mi è stato chiesto anche in questi giorni, cioè cos'è l'abitare? E questa è la domanda per voi, cos'è l'abitare? E abitare per Franco La Cecla e Andrea Staid che significato ha? E partirei un po' da questo per inquadrare proprio il significato anche etimologico e generico del termine. Direi che intanto vi saluto, buonasera a tutte quante, a tutti quanti, e però farei partire Franco, insomma, perché... Cosa? So quello che rischio, per quello che... perché dovete sapere che non è la prima volta che facciamo una conversazione assieme e di solito succede un po' di tutto perché per fortuna non la pensiamo uguale. No, e poi tra l'altro io sono molto meno paziente di Andrea perché Andrea è capace di presentare i suoi libri 300 volte di seguito in 300 centri sociali diversi e non si annoia mai. Io appena lo faccio due volte non riesco più a dire nulla, nel senso che mi annoio, visto che le ho scritte le cose e che ci ho pensato, mi sembra noiosissimo doverle ripetere, ma almeno è noioso per me. Quindi vediamo un po' di riuscire a ricavare qualcosa a metà. Allora, intanto è interessante che io e Andrea non abbiamo mai scritto nulla insieme, e questo però è un motivo su cui riflettere, che non l'abbiamo mai pensato. Sarebbe interessante capire perché. La seconda cosa è che io, allora, ovviamente questa cosa dell'abitare è una cosa che su cui noi siamo un po' sospesi, nel senso che per un verso è bellissimo recuperare questa dimensione del farsi casa, del costruirsela, del capire quanto è bello parlare con le pareti, dialogare con i rubinetti, avere a che fare con lo zoccolo, per esempio, come se fosse un essere umano, cioè questa cosa, diciamo, questa dimensione animista, intimista della casa, no? E dovete sapere che siamo in un momento di grande recupero di questa dimensione intimista, cioè siamo in un momento dove appunto tutti parlano di ritorno, è un momento di ritorno questo, non so, ma anche di ritorno dal punto di vista digestivo, no? Come si chiama il ritorno? Il riflusso. E allora, il riflusso era anche una cosa politica una volta, il riflusso però è anche una cosa digestiva. Allora, cioè, se voi andate in giro per l'Italia, tutti dicono, ritorno, un sacco di gente sta tornando alle campagne, un sacco di gente sta tornando al sud. Non è vero, cioè, qualcuno ci torna, qualcuno va a vivere nelle campagne, poi in genere appunto sono esperienze terribili, nel senso che non è affatto così semplice né così idillico, perché appunto le campagne sono talmente ormai sfigurate e i paesi piccoli sono dei posti atroci in cui c'è un macismo terribile, le donne vengono trattate malissimo. Ti chiedi perché non abbiamo scritto ancora niente insieme, certo, perché la pensiamo completamente. No, ma io faccio questa premessa per poi consentirti di dire che appunto non... Però insomma, l'altra cosa è che però io... forse un po' per questione anagrafica, però in qualche modo ho sempre privilegiato sulla dimensione abitare, anche se ne ho scritto, la dimensione del nomadismo, cioè in qualche modo le case per me sono dei pericoli tremendi, sono delle trappole mortali, cioè in cui uno rischia di esaurire la sua vita appunto parlando con lavastoviglie, con la lavatrice. Conosco una setta in Amazzonia che proprio gli hanno portato le lavatrici, c'è un culto della lavatrice, che la lavatrice ti dà delle cose come la ayahuasca se tu la guardi mentre gira. Quindi allora in qualche modo, però invece secondo me liberarsi, no, dalla costrizione dell'abitare è anche una forma molto interessante di vita, cioè nel senso che c'è una dimensione molto bella dell'uomo viator, cioè di colui che in qualche modo si rende conto che la sua casa è un po' dappertutto, che effettivamente è possibile vivere dappertutto e che è possibile in qualche modo avere un rapporto disincantato, però ovviamente non materialistico con il proprio abitare, no? Però che in qualche modo il proprio abitare serve fin quando serve, però poi bisogna abitare il mondo più che abitare la propria casa, questa è l'altra cosa, no? Quindi secondo me c'è, e poi infatti io ho scritto, non ho scritto abitare, ma ho scritto perdersi, appunto perché perdersi, per quello che mi ricordo, perché l'ho scritto 30 anni fa, perdersi in qualche modo è l'idea di fondo che una delle funzioni, una delle facoltà umane di cui non ci rendiamo conto ma che è più praticata è il fatto che uno deve, mentre cresce, no, da bambino e poi mentre cresce, ambientarsi, cioè riuscire a trasformare i luoghi, in cui, riuscire in qualche modo a conquistare, no? Cioè, i bambini prima hanno in genere appunto un luogo coperto di mura, poi escono, magari accompagnati dai genitori, poi però cominciano a conquistare, no, il marciapiede, l'angolo di strada, capiscono, quando cresci capisci sempre di più, no, che intorno a te c'è un quartiere, ci sono altre case, esplori la città, no? Quindi in qualche modo crescere significa riuscire a prendere possesso dello spazio intorno a voi. E questo, quel libro lì, è un po' la testimonianza di come questa pratica è una pratica che è molto diffusa in tutte le culture, cioè, ma che addirittura in alcune culture è una pratica quasi, quasi rituale, nel senso che fa parte dell'iniziazione delle persone. E l'iniziazione è proprio, per esempio, in alcuni gruppi amazzonici, ma anche quelli che vivono nel deserto, in qualche modo c'è una dimensione dello smarrirsi, del perdersi nello spazio, una dimensione che è costitutiva dell'identità. Cioè, se non ti perdi, non cresci fondamentalmente, non vedi la visione che ti condurrà a capire il tuo destino nella vita, fondamentalmente rimani in qualche modo nell'uovo, no? Quindi rimani in qualche modo impacciato. E questo però, a me questo mi interessava molto, perché effettivamente non c'è cultura in cui lo spazio che viviamo non abbia una funzione in qualche modo costitutiva del proprio essere, del proprio essere al mondo, no? Cioè, perché in qualche modo questa è la prima attività che tutti facciamo. Poi se siamo immigrati lo facciamo al triplo, no? Perché io ho imparato nella mia modestissima immigrazione al nord che, per esempio, se non c'hai un bar di riferimento nella prima città in cui vai a vivere come studente, sei un povero sfigato. Cioè, che è importante piazzare delle bandierine in città che non conosci e in cui vivi, no? E quindi che c'è una forma di bellissima di colonizzazione, no? Che uno fa dello spazio che ancora non conosce. E questo però ovviamente è un'attività faticosa, perché poi più sei in un posto estraneo e più questa cosa richiede fatica, richiede no, in qualche modo riuscire, così dice, addirittura a rimettere a posto i propri punti di riferimento, no? Però è un'attività fondamentale, perché è un'attività che poi serve da modello a tutto il resto, cioè è un'attività che, se non vogliamo chiamarla rituale, però è un'attività molto che ha a che fare molto con l'aspetto neuronale, si direbbe oggi, del nostro vivere. Cioè, la prima cosa che noi facciamo è costruire una mappa mentale del posto in cui siamo, e poi ampliarla, cambiarla. E questa mappa ci aiuta poi a costruire le mappe concettuali. Cioè, nel momento in cui abbiamo una mappa mentale, su questa mappa mentale che si depositano poi anche gli schemi, no? Di come, non so se a voi vi è mai capitato, ma insomma, io sono tornato l'altro ieri a Chiavari, che è un posto in cui ho avuto da ragazzino un grande amore, e la cosa divertente è che, per quanto non ci fossi tornato negli ultimi 40 anni, però riuscivo a orientarmi, perché in qualche modo passando per certe strade venivano fuori certe memorie, no? E questa è un'esperienza no, classica, nel senso che solo quando andate in certi posti sorgono dai posti alcuni ricordi che avete. Lo spazio eccita in qualche modo il nostro ragionare, anche la nostra memoria. Lo spazio è in qualche modo è una specie di come si può dire, direi di libro, ma non è un libro, è un testo aperto, e se voi camminate nello spazio vi tornano moltissime cose. La cosa interessante è che lo spazio è l'unica cosa che abbiamo, cioè il tempo non è nostro, ma lo spazio lo è. Anche le metafore che usiamo per il tempo sono metafore spaziali, perché prima e dopo sono metafore spaziali, al di là oppure forse sopra e sotto, ma anche quelle sono ancora, però comunque moltissimo dell'aspetto temporale, quando usiamo i tempi, è un aspetto spaziale, perché appunto il tempo è totalmente astratto, cioè il tempo non esiste in qualche modo, mentre invece lo spazio esiste. Noi siamo, una delle cose con cui chiudo il libro e che mi sembrava intelligente quando l'ho scritta, forse non lo è più essendo vegetariano, Andrea, era che noi siamo carne geografia, forse non saprei come dirlo adesso in maniera vegetariana, però insomma, quindi diciamo, questo qui è grosso modo ed è il motivo per cui io sono ancora molto sospettoso delle case. Le case sono delle cose bellissime, io faccio casa dappertutto, tra l'altro una delle critiche che mi fanno i miei amici e le mie amiche è che le mie case si assomigliano dappertutto, cioè che in qualche modo io riesco a costruire case che riempio di cose e che però si somigliano molto, no? Come quella di Palermo, quella di qua, no? Quella che ho avuto in giro, cioè in qualche modo c'è una specie, io produco case, ma le produco appunto perché in realtà cerco in qualche modo di non farmi incasellare dalle case, bello incasellare dalle case in questo. E per esempio la cosa che mi diverte molto è mettere nelle case tutte le cose del presente e molto meno quelle del passato. E poi ovviamente a un certo punto mi rendo conto che le case, c'è un momento in cui le case ti parlano troppo del passato, no? Ti riportano a qualcosa che hai già superato. Noi siamo molto più veloci delle nostre case. Ci evolviamo molto più in fretta delle nostre case. Per cui le nostre case dovrebbero in realtà essere concepite come qualcosa che cambia con noi, no? Però, insomma, vabbè, questo... adesso, qui sospendo, però, insomma, faccio parlare Andrea, che sicuramente è anche lui un grande fattore di case. Allora, secondo me, per tornare alla domanda aperta, no, che ci hai lanciato, che cos'è abitare? E anche per collegarmi a quello che diceva Franco, perché hai iniziato scherzando, però poi in realtà hai detto invece tante cose importanti, secondo me, e quindi cerco di seguirti. Allora, per me abitare non è soltanto appunto uno stare in un luogo, ma è proprio costruire delle identità nei luoghi. E quindi quelle mappe di cui parlavi e quella capacità immaginativa di cui comunque tu hai descritto quello che è anche la tua esperienza del fare casa a livello nomade. E quindi l'abitare per me non è soltanto stare in un posto, ma essere in un luogo, cioè costruire quello che noi siamo. Ma ancora di più, i luoghi molto spesso costruiscono quello che noi siamo. Perché poi, insomma, Franco e anch'io in parte, soprattutto nella seconda parte della mia vita, ho avuto la fortuna anche di scegliere. Ma quando non si può scegliere, io sono nato e cresciuto a Opera, un posto di merda, dove c'è soltanto il carcere, dove c'è piccola criminalità, disagio, e questa era Opera negli anni Ottanta. Anzi, negli anni Ottanta c'era un'altra grande cosa, che era l'eroina. Mio fratello ha 10 anni più di me, e i suoi amici, su 10 amici, 7 crepavano di eroina. Quindi questo è il luogo dove io sono stato. Quel luogo costruiva l'identità delle persone che lo attraversavano, quei palazzoni inscrivevano l'identità di chi viveva in quei luoghi. Quindi è una doppia relazione. Abitare significa essere in un luogo e costruire immaginari e identità. Che cos'è l'identità? E qui dovrebbe esserci Remotti che esce da qua e ci racconta un po' la sua visione di che cos'è l'identità. L'identità è in costruzione, è mutevole, è mutante, ha dei confini labili. Però tutti noi abbiamo delle identità che non sono date per fissate, che sono in perenne transito, ma che costruiscono la nostra vita e ne danno forma. Che cos'è casa? Tu non ce l'hai chiesto, però Franco l'ha tirato fuori. Ecco, per me casa però non è quello che dice Franco. E qui così almeno non siamo d'accordo su questo. Perché per me casa non è una struttura, non è una casa da arredare, ma sono proprio ragnatele di significati che costruisco con le relazioni e con le persone che frequento. E questa cosa per me è arrivata dall'etnografia. L'etnografia, sapete tutti, che è la pratica, la nostra pratica artigianale, non di tutti, ma di un po' di antropologi, non devi essere per forza un etnografo per essere un antropologo, un'etnografa. Io per tanti anni, e spero di continuarlo a fare dopo la pandemia, dovrei partire a breve, oltretutto per lo Sri Lanka, chissà, non mi hanno mai risposto. E io facevo, creavo relazioni, domande, e cercavo di capire le cose confrontandomi con delle persone che potevano essere i Rom del villaggio Le Rose di Milano, come gli Zhao delle palafitte del Vietnam. E molto spesso, soprattutto nelle situazioni più marginali, quando chiedevo che cos'era casa, la risposta non era mai la casa che ho arredato, il luogo dove dormo, ma era il bosco, era lo spazio comune esterno, era la palestra popolare occupata in un quartiere povero, era il cinema autogestito, l'asilo per i bambini, era la biblioteca degli oggetti. E quindi casa era le relazioni che creavano un sentimento e una relazione di, potremmo dire, comunità, che anche questa parola è difficile da utilizzare. Ma nel mio libro, in realtà, non siamo qui per presentare i libri, però io devo tanto invece a un concetto che tira fuori Franco in due testi, primariamente in Perdersi e poi in quello che dà il nome proprio di questo concetto, che è la mente locale. Che quando io ho letto Perdersi, ho detto chissà se Franco, ho riletto Perdersi, perché in realtà, Fedi, abbiamo fatto una cosa assieme, ho fatto la prefazione del tuo libro, ho pensato cosa ne penserà oggi Franco della teoria che lui ha creato della mente locale. E visto che magari non tutti la conoscono, io ti ridò subito la palla per dire che cos'è la mente locale e semmai distruggere la teoria che avevi fatto un 35 anni fa. Ti ho fregato stavolta. Ma dunque, allora, è molto semplice. Intanto perché tutti sapete che significa fare mente locale, no? In genere lo si dice con un tono di rimprovero, fai mente locale, cioè, nel senso che proprio lo dite a quelli che non riescono mai a capire che c'è un contesto, che ci sono delle circostanze da rispettare, no? Quindi in qualche modo, ed è un'espressione italiana, non esiste in altre lingue, viene da Napoli, dal 1400, e praticamente, cioè, io l'ho un po' forzata, cioè la mia idea è che esiste una maniera di capire le cose che è molto legata al posto in cui vivi. Cioè ci sono delle cose che puoi capire, ci sono delle cose in genere di un posto che puoi capire solo se ci vivi, no? Però ci sono anche delle maniere di essere, di fare, che se tu non hai vissuto in quel posto non le capisci. Cioè in qualche modo c'è una maniera di... c'è una parte del nostro ragionare, del nostro anche vivere le emozioni, ha molto a che fare con qualcosa che è maledettamente locale, no? E che è difficile spiegare a chi non ne fa parte, no? Ed è un po' quello che succede quando voi vivete molto in un posto, no? Allora, la cosa divertente di quelli che vivono in un posto è che prendono delle abitudini, no? Per esempio, io ho vissuto per un periodo a Istanbul, che è un posto bellissimo, stupendo, uno dei più bei posti del mondo, e ho invidiato moltissimo gli istambulioti, nel senso che ho invidiato la nonchalance con cui coloro che vivono in un posto ci vivono, senza vivere da turisti, cioè in qualche modo vivendo questo posto non come un posto da scoprire, no, ma come un posto che fa parte normalmente della loro vita quotidiana, dove hanno delle abitudini, perché le abitudini sono la chiave dell'abitare, e dove in qualche modo sviluppano un rapporto che sembra pratico col luogo in cui stanno, ma in realtà non è così semplice. A Istanbul, per esempio, soltanto dopo 2 mesi che ci abitavo, alcuni amici di Istanbul mi hanno spiegato che esiste un sistema di funicolari che nessuno vede, con cui riesci a spostarti da un posto all'altro, ma che se tu non sei di Istanbul sono completamente invisibili, no? E questo è vero in tutti i posti, cioè soltanto dopo un po' ti rendi conto di alcune cose che sono per te, che sei appena arrivato o da poco arrivato, sono assolutamente invisibili. E questo vale per tutti i luoghi, cioè anche per i luoghi più piccoli, nel senso che c'è una soltanto dopo una certa familiarità con un posto ti accorgi di certe cose, no? E questo è interessante perché in realtà costruisce una relazione doppia, cioè in parte è una relazione per cui tu prendi cose da un posto, no? Ti abitui a certi cieli, ti abitui al fatto che la Luna, sapete che la Luna, una delle cose che non dicono gli antropologi è che la Luna non è uguale per tutti in tutto il mondo, non so se lo sapete. Per esempio noi purtroppo non abbiamo mai la Luna a barchetta, cioè con la falce completamente a gondola, perché la Luna a barchetta la vedete soltanto nei posti sotto il tropico, no? Cioè la Luna cambia a seconda della latitudine. Ed è divertente pensare che anche la Luna è diversa, no? che i cieli sono diversi da posto a posto, no? Se uno va a Palermo, il cielo di Palermo è diversissimo dal cielo di Milano, questo è ovvio. Però poi questa cosa qui ti entra lentamente dentro, cioè in qualche modo fa parte effettivamente delle cose che tu dai per scontate, ma che diventano parte della tua abitudine a stare in un posto. Accanto a questo esiste per coloro che vivono molto in un posto anche il contrario, cioè che coloro che vivono in un posto fanno diventare il proprio posto a propria immagine e somiglianza, no? Questa, cioè c'è questa doppia relazione e io chiamo questo mente locale, cioè i posti somigliano alle persone che ci vivono. Le persone che vivono in un posto somigliano al posto, ed è il motivo per cui il mondo ancora, però sicuramente fino a 50 anni fa, era così diverso, perché effettivamente un villaggio amazzonico vive il proprio star lì in un modo diversissimo dal villaggio accanto, che parla una lingua diversa, che ha una cosmologia diversa, che no, perché effettivamente c'è una specie di connubio reciproco molto forte tra luoghi e persone, no? Questo è divertente nella cucina, poi ti passo la parola. Ci sono dei luoghi in cui il cibo somiglia al paesaggio. Pensate alla polenta, no? Pensate per esempio alla pasta col sugo. Che cos'è? La pasta col sugo è veramente in qualche modo una collina, una montagna su cui mettete delle cose, no? Cioè, e questo è vero in moltissimi posti del mondo, cioè i cibi somigliano moltissimo al paesaggio e la gente, per esempio, pensate cos'è il couscous è il deserto, no? Allora, pensate che c'è una relazione talmente forte tra paesaggio, persone e quello che la gente mangia quotidianamente, che addirittura queste cose hanno un effetto. Una delle cose che ho scoperto, e questa è la risposta a Andrea, è che tutto quello di cui io parlo, cioè la mente locale, non ha una dimensione linguistica e nemmeno una dimensione concettuale, è una dimensione formale, è una relazione tra forme quella che accade. Cioè io mi faccio sagomare dal posto in cui sto. Sapete che c'è gente capace di capire dalla camminata delle persone da che posto vengono. In America Latina la camminata di quelli di Porto Rico è diversissima dalla camminata di quelli del Costa Rica. Cioè riuscite a individuare da come camminano, da dove vengono, perché effettivamente anche quello è un rapporto, no? Molto diretto con, tra le suole, i piedi e il... Ecco. In realtà vorrei subito farti un'altra domanda, ma ti voglio portare anche su un altro piano, vorrei portare su un altro piano che secondo me è importante, perché prima tu ci hai scherzato sopra, ma so che era uno scherzo, perché in realtà sei un grande conoscitore di questa tematica, quindi io sono un po' il bacchettone questa sera, come al solito quando io e te facciamo qualcosa. Tu parlavi delle parlare con il mobile, che ovviamente stai prendendo per il culo me, perché io nel mio libro c'è tutto un capitolo dove parlo proprio di come ho costruito il mio studio, la mia casa, e parlo della corrispondenza con gli oggetti. Però a parte le battute, ovviamente qui stiamo parlando dell'agency dei materiali, cioè del fatto che poi uno dei grandi autori, nostri colleghi, nostro collega è Tim Ingold, che ci ha speso tantissimo su questa tematica, soprattutto in Making, che è uno dei suoi ultimi libri pubblicati in Italia, dove ci parla di come la materia non possiamo dominarla, ma ci corrispondiamo. Quindi quando io scrivo che ho avuto una relazione con la materia, non significa, come diceva Franco, che io andavo dal castagno e dicevo ciao castagno, come stai? No, ovviamente, e lo sai. Quello che succede è che se tu non utilizzi un mezzo meccanico che porta alla standardizzazione, ma utilizzi le tue mani, cosa che si può scegliere di non fare, con quella materia crea una relazione e quella materia ti porta anche dove vuole andare. E questa è una cosa interessante perché appunto per una teoria fondamentale come quella dell'agency, cioè delle persone, si sposta sul lato della materia e di come i materiali in realtà hanno non un'anima, perché non stiamo parlando di animismo, anche se c'è chi lo fa, ma hanno una soggettività. Cioè quel materiale può corrispondere con la persona. Questo cosa significa? Dove voglio arrivare? Voglio arrivare a un tema che è legato alla mente locale in realtà. Perché tu, quando hai teorizzato questa cosa, nei tuoi due libri, Perdersi e Mente Locale, partivi da una grande critica a, che non so più se sei d'accordo, ma ce lo dirai, siamo qua assieme, che è quella di una forte critica all'urbanesimo. Hai scritto anche un libro che si chiama Contro l'urbanistica, come si chiama? Sì, e anche uno contro l'architettura, quindi... Diciamo che hai l'idea abbastanza chiara su questa cosa. E cosa dicevi in questi testi, che poi sono diventati per me fondamentali proprio per ragionare su queste tematiche? Che la standardizzazione e la burocratizzazione dell'abitare ha decostruito la possibilità di fare mente locale e quindi anche di avere una corrispondenza con la materia. Che cosa significa? Che noi non parliamo di nessun passato, per almeno io non parlo di nessun passato eroico perfetto. La società contadina, i piccoli paesi sicuramente avevano mille problematiche che in città non ci sono. Però è anche vero che la città, la megalopoli, ha distrutto la nostra capacità di corrispondere con la materia e di fare mente locale, per come vi ha raccontato adesso Franco. E soprattutto, e questo lo sappiamo bene, ci ha condotto in un vicolo cieco, che è quello dei nostri consumi e del nostro comfort, che ci porta a vivere in quella che possiamo chiamarla un po' come ci pare, antropocene, capitalocene, comunque in un'era che è quella che ci avvicina a una fine, se noi non cambiamo il nostro modo di avere un impatto demolitore sull'ecosistema. Cioè noi dobbiamo renderci conto che come specie facciamo parte di un holos integrato, cioè ci dobbiamo relazionare con le altre specie, che siano esse vegetali, materiche o animali, e quindi con vita. E questo secondo me è molto importante e ha a che fare con la mente locale. Ha molto a che fare con la mente locale, perché visto che noi oggi qui parliamo di abitare e di costruire case anche, cioè di come fare casa, se noi non siamo più in grado di capire né la mente locale dal punto di vista sia simbolico che identitario, ma neanche della relazione col materico, significa che non sappiamo più cosa è costruire casa in un modo che sia relazionale e non gerarchico con l'ecosistema che ci circonda. Quindi, per farla più semplice, secondo me stasera, se tu hai voglia, Franco, anche di criticarmi, perché è meraviglioso che non siamo d'accordo, è il fatto che dal mio punto di vista noi dobbiamo pensare a una mente locale, a un abitare che sia realmente ecosostenibile. Cioè noi dobbiamo fare i conti con il fatto che così come ci siamo costruiti la vita nell'ultimo secolo, magari è bellissimo, ma non è più sostenibile, non lo è mai stato e sicuramente non è sostenibile. E quindi dobbiamo ripensarci anche attraverso una corrispondenza con i materiali e quindi capire cosa è meglio utilizzare, cosa è meglio mangiare, come è meglio spostarsi e quindi creare e costruire un abitare che secondo me debba essere molto più elastico. Una delle cose, per esempio, fondamentali della nostra relazione di amicizia, perché poi oltretutto noi siamo soprattutto amici più che colleghi, anche colleghi ma soprattutto amici, è quella che è basata su una delle cose che forse sì, mi hai fatto scoprire tu, che è un autore che si chiama Ivan Illich, che era un tuo amico, e che è la convivialità. Perché in effetti, Franco, quello che mi ha stupito è che quando io l'ho conosciuto, 10 anni fa, forse di più, non lo so, ha cominciato a occupare i divani di tutte le case dove io ho abitato. E costruiva una casa, no? E fondavamo un rapporto e una relazione che era quella appunto degli immaginari e delle reti di significati che sapevamo costruire, che lui sapeva costruire e che io cercavo di costruire insieme a lui. E la convivialità è qualcosa di centrale, secondo me, e soprattutto di ecologico. Secondo te perché la convivialità ha a che fare con l'ecologia? E secondo te Ivan Illich, quando ha scritto quel testo, cosa pensava dal punto di vista dell'abitare? Se hai voglia di dirlo. Ma io domande non ne posso fare, sì, sì. Solo tu. Se vuoi ti rispondo a quelle prime provocazioni anche del paese. Io sto benissimo in un paese di 300 abitanti. Non lo so. Io sono convinto che, appunto, in qualche modo l'abitare non è... cioè l'abitare anche quello... di molto consapevole di relazione con le case, no, non è detto che sia ecologico, nel senso che poi l'uomo ha una storia, l'umanità ha una storia di grande presa di possesso, no, dei luoghi, e molto spesso sapete che una delle storie più divertenti che gli antropologi non raccontano è che i Maori, che sono un po' considerati gli eroi dei tatuatori, ma che sono anche considerati questo grande popolo indigeno, no, che ha avuto che praticamente ha in mano in qualche modo adesso la Nuova Zelanda, cioè dei veri diritti, però i Maori sono in Nuova Zelanda perché hanno distrutto un'altra isola molto più su, dove si sono mangiati un uccello che non c'è più, che era grande quanto uno struzzo e però era buono come un pollo, che loro l'hanno completamente estinto, e l'hanno estinto in un'epoca era estinto nel IV secolo d.C. Cioè, quindi insomma, diciamo, i Maori erano indigeni, i Maori sicuramente costruivano delle case interessantissime, però poi i Maori, come moltissimi popoli indigeni, distruggevano quello che avevano, quello che gli serviva da risorsa. Molti popoli indigeni distruggevano anche la foresta, per esempio, non è un binomio costante questo fatto che abitare in un certo modo abbia un aspetto ecologico, perché c'è una forma di predazione, no, nella storia dell'umanità, che comunque è molto complessa, nel senso che anche il rapporto con gli animali è un rapporto molto complesso, nel senso che i popoli indigeni non hanno un rapporto tenero con gli animali. Magari pensano che il giaguaro sia il loro antenato, però poi questo non significa che gli dicono ti voglio bene. Cioè, ne hanno paura perché diventano prede del giaguaro e in qualche modo hanno un rapporto comunque sempre di preda-predatore. Però scusa, Franco, visto che è un discorso importante che stai tirando in ballo, io... A parte che non avevo parlato di indigeni e di abitare indigeno, però fa niente. Il giaguaro però è un soggetto, perché gli allevamenti intensivi, certo, Nessuna comunità indigena è mai riuscita a farli. Cioè gli indigeni mangiano gli animali, ma c'è una relazione che è soggettiva. Sì, però li puoi anche sterminare tutti. È raro. Beh, i Maori l'hanno fatto. Sì, cioè, okay, non è... però... cioè nel senso che... questa è una questione... molto, molto interessante, assolutamente, perché è vero che gli antropologi stanno tirando in ballo questa faccenda che gli agenti non sono soltanto quelli in divisa che vi fanno la multa, no? Ma gli agenti nel mondo degli antropologi sono tutte quelle entità che hanno un aspetto intenzionale nei vostri confronti, no? Cioè in qualche modo che vi chiedono delle cose. Per cui in molte culture gli animali, ma le piante, ma anche le pietre, no? anche i manufatti sono dotati di una, quello che si chiama questa parola orrenda, che la traduce agency, che è di agentività. Cos'è l'agentività? L'agentività è il fatto che effettivamente alcune cose, alcune presenze in qualche modo vi interpellano, cioè vi chiedono in qualche modo una relazione. Pensate, questa è la tipica cosa, pensate che cos'è cos'è un calice. Un calice è un oggetto che però vi chiede, quando voi prendete un calice, quando voi vi avviate per prendere un calice, che gesto fate? A proposito. Fate questo, no? Cioè la vostra mano diventa in qualche modo il calice, per cui effettivamente noi abbiamo questo rapporto con gli oggetti, per cui ci trasformiamo in qualche modo per relazionarci ad alcuni oggetti. Questo è vero nelle cose di cui dice Andrea, cioè per esempio se uno deve fare un cesto con un certo tipo di canna, è la canna, il tipo di canna che vi spinge a fare certi gesti. Cioè, questo è interessante perché, per esempio, in tutta la cultura della mano c'è un rapporto dove la gestualità è molto è un mimetismo della materia. Cioè, i gesti che noi compiamo imitano la materia con cui abbiamo a che fare. Per cui poi la mano diventa in qualche modo in parte nostra, in parte diventa parte della materia che toccano. Allora, tutto questo è un racconto interessante perché è un racconto di una realtà carica di significati. Cioè, il vero problema oggi è che abbiamo funzionalizzato a tal punto sia gli oggetti che i manufatti, che le case, che i condomini, da avere completamente perduto l'aspetto profondamente significativo di queste cose, nel senso che poi anche se uno vive in una casa di condominio, anche se uno vive ad opera, però alla fine quella casa in cui vivi è una casa su cui tu hai proiettato moltissimi significati e quindi non è più soltanto, no, il tipico appartamento, è qualcos'altro, cioè perché noi siamo capaci di proiettare moltissimo significato sulle cose che abbiamo intorno. E questo lo possiamo fare perché le cose ci rispondono. Questa è la cosa interessante, no? Questo è molto divertente perché c'è una dimensione che potete prendere molto intimista. Io sono amico delle mie scarpe All Star, no? No? Oppure una dimensione leggermente meno intimista, però un pochino più, come si può dire, per cui le cose ci fanno compagnia, veramente, cioè in qualche modo non è vero che uno può sostituire una cosa con un'altra, ma le cose ci accompagnano in tutta la vita, no? sono, e non sono delle cose fredde, non sono pura materia, no? Cioè, le cose hanno dentro molto, pensate cosa sono i doni, pensate cosa sono i pegni. Allora, la cosa divertente è che io ho 100 studenti e quando ho chiesto se sapevano cos'era un pegno, nessuno mi ha risposto. Perché l'idea del pegno si è perduta. E dice, ma che cos'è un pegno? E allora diciamo, pegno è, che so. Allora, qualcuno ha detto, è un anello. E un po' c'entra, no? Però il pegno non è solo un anello. Cioè il pegno, in qualche modo, è un oggetto che io lascio in sostituzione della mia persona. Cioè dico, ti lascio questo impegno del fatto che tornerò, no? Quindi è interessante, cioè è proprio una maniera con cui gli oggetti diventano, si mettono, sono al posto delle persone, no? E questo, però, la cosa tremenda è che noi viviamo in una società che fa finta di essere ascetica, che fa finta di non aver bisogno di un rapporto affettivo con le cose. Ma in realtà questo è impossibile, perché in realtà è impossibile essere anaffettivi nei confronti anche delle cose in mezzo a cui uno vive. Ora, però, questo è molto bello a livello personale. No, non è che per forza produce un'ecologia diversa, però sicuramente produce un vivere più sano, cioè un vivere in cui uno capisce che non è un povero sfigato quando viene abbandonato dalla fidanzata, ma che per esempio puoi farti compagnia col lavandino, che puoi parlare alla radio che hai in casa, insomma, cioè che in qualche modo tu hai un rapporto significativo col mondo, a prescindere dal fatto che c'hai o meno un rapporto sentimentale che funziona. Beh, Miller parla di, infatti, il libro che ha scritto, Cose che parlano di noi, no? Di come appunto gli oggetti di cui ci circondiamo hanno a che fare con le nostre personalità e come ci sia una relazione fra questo, no? Io mi ricordo che quando ho deciso di andare a vivere in mezzo ai monti, tu mi hai detto: guarda che ti annoierai perché gli alberi tu li guardi, ma sono sempre gli stessi. Mentre in città era una citazione. Mentre citavo, in città ci stavo sono Reagan. Certo. Capisci che e in realtà io su questo non sono d'accordo, per esempio, perché a differenza di un lavandino, invece l'albero, non dico che l'albero ha un'anima, ma l'albero muta, cambia e si relaziona con te in un modo completamente diverso, anche secondo le stagioni che passano. Una cosa che io ho imparato della mia mente locale degli ultimi 5 anni è orientarmi con gli odori, i sapori, i rumori, i suoni, che tipo di foglie ci sono, che tipi di funghi ci sono. Cioè, questa è una cosa che per me è stata dirompente nella mia vita personale, che non vuol dire che deve essere una soluzione per uscire da una determinata crisi dell'ecosistema che stiamo vivendo, perché non è che tutti possono andare a vivere in campagna e non è quello che io professo. Però sicuramente mi viene in mente l'altro libro, quello sulla pista animale, no? Di Morisot, che è una cosa che io faccio in effetti, che per me uscire dal sentiero cercando le tracce animali è stato proprio un riorientamento della mia vita, no? Che non avevo mai fatto, perché sono un cittadino, ero un cittadino, e quindi è qualcosa che ti porta a mutare, perché quel luogo si iscrive non soltanto in te, ma nell'immaginario che tu hai della relazione con lo spazio e il tempo. Perché, tornando alla domanda iniziale, abitare, secondo me, tu dicevi abitare lo spazio è nostro, il tempo no. Io invece credo che l'abitare sia proprio uno stare e un essere fra lo spazio e il tempo. È chiaro che il tempo sfugge, noi non possiamo sapere quello che sarà. Però tu hai disertato da Ivan Illich e no, ci ma sta. Io adesso devo fare la domanda a te, allora, esatto. poi torniamo. Cioè, allora, la casa che tu hai costruito in Liguria è il tuo ritratto o no? Sì. Spiegalo però. Nel senso che cioè, ci sono gli spifferi e tu hai gli spifferi. per esempio, la cucina non funziona sempre. Cioè, no, spiegami. Perché no, è quello che ho cercato di scrivere anche, no? Ho costruito una casa da antropologo, si chiama l'ultimo capitolo del libro, proprio perché la mia esperienza degli ultimi 10 anni, sia di studio che di etnografia, ha fatto sì che io ripensassi e risignificassi la casa un po' attraverso quello che erano, potremmo dire, l'alterità che era entrata in me, no? E la conoscenza che avevo acquisito nella relazione con persone che vivevano in modo diverso dal mio. E quindi la casa ha preso forma lentamente, sicuramente non è una casa da catalogo perfetto di design, di interni, però raffigura anche le mie incertezze come le mie sicurezze, gli spifferi sono sicuramente i lati, quelli delle incertezze, però appunto ci sono tante cose che invece hanno preso forma proprio a partire da quello che era la mia esperienza con il mio lavoro, anche perché per me l'antropologia è sempre stata più un'attitudine alla vita anche, oltre che un metodo di ricerca. E quindi quando è un'attitudine alla vita e quando ti apri alla differenza, ma soprattutto, e così iniziamo a litigare, quando si cerca di avere un approccio non egemonico, postcoloniale, non etnocentrico, tutte le cose che a te fanno arrabbiare politicamente corrette, che però per me sono fondamentali, ti portano a essere non l'antropologo che va sul campo, ma uno fra i tanti. Come dice sempre Ingold, prendere gli altri sul serio. Cioè l'altro molto spesso sul campo diventavo io. Cioè io cercavo di essere quello da mettere sul piatto della discussione. E quindi quando si apre l'identità, la relazione non egemonica, la relazione cambia. Quando io tornavo dai miei viaggi non ero più quello di prima. E anche se tu non sei d'accordo, anche per te è sicuramente stato lo stesso. Perché le tue case, che io ne ho conosciute un po', sono molto questo, cioè sono il mondo che è entrato in te. Ed è vero, quando tu prima dicevi, scherzando, che le tue amiche e i tuoi amici dicono che fai case sempre uguali, no? In realtà io non sono del tutto d'accordo, però comunque le tue case hanno sempre parti di mondo, hanno sempre parti di persone e non soltanto oggetti. Perché soprattutto la cosa più bella di venire a casa tua, dalla prima volta che ci sono venuto a Palermo in quella vecchia, era i racconti che generavano gli oggetti. E questo è proprio l'aprirsi a un'identità labile, perché il Franco la Cecla che è prima di Istanbul non c'è più, secondo me. Poi tu puoi essere non d'accordo, però questa è la mia visione. Quindi sì, la mia casa rappresenta la mia identità. Vabbè, poi di questo ne parliamo una volta. Insomma, non... Comunque no, allora, una delle cose interessanti è, per esempio, perché Andrea è un grande... Secondo me fa autore di una cosa che una volta si chiamava autocostruzione, no? E che per me era una battaglia molto importante, perché l'idea di fondo che la gente potesse farsi la casa andava contro l'idea che ci vogliono gli esperti, che ci sono gli architetti che lo fanno. Qui chi di voi è autocostruttore? Ne abbiamo uno che sicuramente si è autocostruito varie case bellissime. Però insomma è un'esperienza anche vostra, l'esperienza di mettere le mani del mettere le mani sulle cose, dire ma io non ci sto a fare che qualcuno faccia le cose per me, me le faccio io, no? Questa è una cosa che è un'esperienza che vi sembra lontana, è un'esperienza che in parte quante volte andate da Brico in una settimana? Almeno 2-3 volte, se no non potete stare qui dentro. Avete la tessera a Brico? Adesso la possiamo vendere stasera, la tessera a Brico qui? È che potevi entrare con quella se non avevi. Certo. Per esempio, io da lui ho imparato l'importanza dell'andare da Brico. Cioè, sapete che tra l'altro è molto buffo, perché la parola bricoleur è una parola che sta al fondamento dell'antropologia. Perché quando Lévi-Strauss, che non è quello dei pantaloni, ma è un antropologo, va la prima volta in Amazzonia, lui capisce che gli indigeni che lui frequenta conoscono 2000 specie vegetali, no? E sanno anche l'uso, sanno se sono velenose, se non lo sono, cosa servono. E poi hanno una capacità molto, però non specializzata, cioè non sono degli specialisti, no? Sono delle persone che si barcamenano in una grande cultura pratica, però a un livello che a noi sfugge, nel senso che poi sono effettivamente conoscono benissimo i segni del tempo, conoscono, cioè in qualche, però Lévi-Strauss per descrivere questa maniera di pensare di questa cultura pratica dei selvaggi, come insomma scrive un libro che si chiama Il pensiero selvaggio, lo chiama bricoleur. Allora, la cosa interessante è che gli stessi indigeni che lui studia hanno anche un altro piano, cioè le stesse piante che loro usano per delle cose pratiche, però hanno anche, per esempio, un aspetto fortissimo simbolico. Per cui, per esempio, il tuo totem, che in qualche modo diventa una specie di parente, può essere un albero che tu per altri versi utilizzi, non è che non utilizzi, però che ha un livello di altro tipo, cioè in queste culture quelle due cose sono compresenti, c'è un livello pratico per cui la gente sa perfettamente che se dà un colpo di martello a un chiodo, il chiodo entra, e poi c'è un livello simbolico per cui devi in qualche modo esorcizzare il martello, perché non basta sapere che se tu dai un colpo di martello il chiodo entra. Quello che devi sapere è se quel martello in quel momento particolare non si ribellerà a te, e quindi hai bisogno che il martello sia scolpito in una maniera tale che abbia una fattezza con cui puoi relazionarti come se fosse in qualche modo un essere, no, con cui hai a che fare. No. Questo è fortissimo in tutte le culture, però questo non c'entra niente. No, però due cose. Però, intanto in realtà c'entra proprio, cioè, sono molto felice che ci sia una registrazione di questa serata, perché ti sei tornato. In realtà questo è il discorso che abbiamo iniziato prima, no? Sull'agency. Anche della materia, no? Ma soprattutto credo che la cosa più divertente sia che siamo partiti dal brico e sei arrivato al pensiero. Il brico è un posto magico. Cioè, quindi questo è molto, molto interessante. Io non so, se volete fare delle domande, fatecele, perché sì, come più o meno avete capito, con Franco ci conosciamo da tanto e potremmo parlare di tutto. Una domanda in fondo. La sua, spero. Alla mia. Perché ok, la serata è finita. Dato che l'hai uscita è molto bello. Ma intendiamo il PC, cioè quello che si chiama PC. Ma dunque, non è che ho un'opinione su politicamente corretto. Ieri mi hanno raccontato per una cosa che è successa a Parigi qualche giorno fa, cioè una critica, una famosa critica del cinema, ha detto che un film che aveva visto era una vera perla, e poi ha aggiunto: però devo chiarire che io sono contro gli allevamenti di perle, no? Ora capite, cioè, diciamo, c'è un livello del politicamente corretto che veramente non è, diciamo, è ingiustificabile, nel senso che ma perché uno, cioè, certo, irritare le ostriche è una cosa gravissima che non sappiamo che conseguenze abbia. Però intanto le ostriche anche di sé producono irritazioni e perle, anche se uno le irrita, anche se non sono i cattivi giapponesi che lo fanno. Però il punto è che il politically correct in qualche modo è un autogol sempre, cioè nel senso che nel momento in cui pone in qualche modo delle regole, la realtà è talmente ambigua e molto più complessa che tutte le regole del politically correct a un certo punto diventano il loro contrario. È un po' questo, no, il grosso problema. Quindi, e poi soprattutto l'altro grosso problema è che il tentativo di costruire una morale. E allora io lì su quello ho molti dubbi, perché io non credo che sia legittimo costruire una morale sociale, nel senso che è quello da cui ci siamo liberati. Si chiamava Chiesa Cattolica, si chiamava il partito, si chiamava molte altre cose, però sicuramente una delle cose che abbiamo imparato è che la vita delle persone non si costituisce in base a una morale, ma in base a qualcos'altro su cui ho lavorato molto. È una cosa che fa parte della mente locale, cioè è una cosa che le regole che la gente si dà nella vita quotidiana. Nella vita quotidiana la gente si dà delle regole che sono elastiche in genere, cambiano col cambiare del tempo e non sono mai considerate morali. Sono regole di buon comportamento. Ci sono alcune culture africane in cui ci sono alcune cose che non si possono fare. Fondamentalmente tre, se no ti cacciano fuori dal villaggio. Non puoi mentire, non puoi rubare e non puoi scorreggiare. E se lo fai, soprattutto la terza, ti cacciano via dal villaggio. Perché? Perché fondamentalmente tu dici: ma perché, scusatemi, sono cose molto più gravi. Lo dico no, perché sono tre evidenze del fatto che non riesci a controllarti. No? E quindi fondamentalmente non puoi stare in questo villaggio, magari vai nel villaggio accanto, no? Però è questo, cioè è moltissimo vero, cioè, cioè nella vita quotidiana c'è una magnifica ambiguità per cui le persone non si trattano in base alle regole che hanno infranto o meno, ma si trattano in base a quanto il comportamento altrui può essere nocivo o meno nei tuoi confronti, no? Quindi molto più una cosa molto più immanente, molto più legata al caso singolo, cioè è questa la cosa importante ed è una cosa che gli antropologi sanno e possono testimoniare, cioè più vai nelle culture indigene e meno trovi delle regole che sono delle regole morali, no? Noi abbiamo messo, cioè, secondo me il politically correct è ancora un tentativo di impadronirsi, diciamo di intestarsi un super soggetto, un super io che sia la Chiesa, che sia lo Stato, che sia il partito, no? In qualche modo, e questo è abbastanza, cioè a me dà molto fastidio perché insomma l'ho vissuto in tutte le accezioni e poi invece quando vivevo in posti veri mi rendevo conto che la gente non si comportava, cioè per esempio se uno va in Cina, che è un paese pieno di controllo dove lo Stato ha un peso fortissimo, la gente nella vita quotidiana riesce a ricavarsi degli incredibili spazi di libertà. Dominio e arte della resistenza, no? Quello che dice Scott. Sì, sì, cioè, ma che, penso che anche quando vivi in un condominio, in queste stecche orrende di condomini alla periferia di Shenzhen, però poi riesci a costruirti sul marciapiede, nei pianerottoli, delle relazioni significative che hanno a che fare col fatto che la gente non vuole essere inquadrata mai. E ogni 150 anni il potere in Cina sa che se la gente si incazza cade tutto. La Cina ha avuto 28 dinastie che non sono durate più di 150 anni e sono state travolte dall'incazzatura della gente perché il potere in Cina ha sempre cercato, no, di dominare un paese immenso con delle regole, però il potere intelligente sa che non devi dare delle regole forti, né che vanno fino in fondo. Nel momento in cui entri nella vita personale della gente, la gente non lo sopporta. Quando il partito ha imposto a tutti di avere un solo figlio, la gente ne aveva due o tre e li intestava ai genitori, ai nonni, ai vicini. Cioè, per cui anche queste cose che sembrano, no, ineluttabili, poi nella vita quotidiana la gente crea un altro tipo di regole, per fortuna, che sono sempre regole. Cioè, io in questo libro che mi ha pubblicato Andrea, che si chiamava Una morale per la vita di tutti i giorni, citavo queste 10 regole, adesso non me le ricordo, di questo popolo del Madagascar, completamente folle. Ho fatto l'editor, me lo ricordo. I Vezo, che sono un popolo nomade del mare. E questi dice, la prima regola è non si può sorridere mentre si mangia il miele. La seconda regola è non si indicano i delfini col dito. La terza regola è non si buttano dopo il tramonto i carapace dei granchi che avete mangiato. Insomma, sono tutte così. Allora, quando uno chiede a Vezzo, ma scusa, ma perché? Lui dice, magari lo sapessimo. Okay. Sono quegli stronzi dei nostri antenati che ci hanno imposto queste cose e ogni volta che noi facciamo una cosa diversa ci viene la sfiga. No, quindi insomma, quella è un'altra dimensione, la sfiga è un'altra dimensione fondamentale. La sfiga è una cosa di cui si occupano gli antropologi o no, Andrea? Beh, più che altro la subiamo, non so se... Beh, la possiamo anche mandare. Dipende dall'oracolo Benge, come dice Evans Pritchard, no? Certo. Ci sono altre domande? Sulla sfiga? Beh, la sfiga vi interessa, spero, no? Io sto cercando adesso di coinvolgere Andrea a fare con me questo talk sull'amarezza. Sono uno dei temi che mi affascina in questo momento è l'amarezza, perché non riusciamo più a essere amari. E essere amari salva dalla depressione. Quindi io voglio fare un business con Andrea, vendere amarezza per potere tutto. Al posto di Xanax. Lo stiamo lanciando. Chi è che sa cos'è l'amarezza? L'amarezza è... Come la definireste l'amarezza? Quando è che uno diventa amaro? Il riso amaro. Quando la tristezza va male, cioè la tristezza marcisce. Beh, sì, cioè quando la tristezza diventa qualcosa per cui dici Cioè, in qualche modo l'amarezza è una forma di constatazione, per cui prendete coscienza della tristezza, no? E quindi dite, è bellissima la gestualità dell'amarezza, no? In genere si fa così con la testa. No? Ma però, infatti faremo uno spettacolo, non sarà? Sì, faremo, nel senso, per imitare Andrea che fa sempre spettacoli, ho costretto un mio amico organista bravissimo, che si chiama Gaiezza, a fare con me questa cosa che si chiama Sonata per Amarezza, e che appunto lui ha scritto una vera e propria sonata, cioè dove ci sono, sapete che le sonate, come le sinfonie, hanno dei movimenti, no? Allora, il primo movimento è amaro, il secondo è amaro ma non troppo, poi c'è amaro andante, no? Quindi siamo, e lui l'ha già scritto, quindi è tutto pronto, e stiamo cercando uno sponsor, stiamo cercando di convincere Dolce & Gabbana, però... Allora, domande, fateci domande. Intanto, chi è che di voi ha letto questi libercoli che abbiamo fuori? Beh, dai, l'interrogazione, no? Avanti, fate. Se no, io prendo la palla. No, c'è una domanda. L'abbiamo pagata. Abbiamo... Quello che io ho imparato, che raccontavo brevemente, ho accennato qualcosa prima, no? Quello che mi hanno dato le esperienze che ho fatto con diverse comunità indigene o non indigene, ho fatto anche appunto etnografia nelle situazioni marginali in Occidente, è stato quello che molto spesso la casa è l'esterno e non l'interno. Secondo me dobbiamo proprio pensare alla casa, se io devo pensare a proporre una concezione di casa del futuro, è proprio un ribaltamento, potremmo dire una geopolitica degli interni che esplode. Cioè, il nostro problema, secondo me, come specie, cioè come Homo sapiens, è che noi abbiamo vissuto la maggior parte della nostra esistenza fuori e da pochissimo stiamo dentro. Questo ci ha fatto ammalare, questo ci ha fatto, secondo me, ovviamente dibattiamo, questo ci ha fatto diventare Homo comfort, e quindi una vera e propria rivoluzione antropologica, per molti positiva, però noi siamo quelli che sono abituati a stare per la maggior parte del tempo in un luogo chiuso, a vivere questo, che è quello che stiamo facendo adesso, è qualcosa di molto strano per l'esistenza di Homo sapiens. È buio, la mia vicina di casa a quest'ora dorme perché è buio. Invece i combustibili fossili ci hanno regalato questa possibilità. Ce l'hanno regalata. Che cosa comporta quello che stiamo facendo adesso come impatto? Aspetta, adesso arrabbiati, ma fammi finire il discorso. Cioè, quindi è ovvio che io non vi sto dicendo torniamo a vivere soltanto con la luce del giorno, però tendenzialmente credo che quello che noi abbiamo costruito con il rapporto con l'interno è stato proprio quello che ha fatto, da un certo punto di vista, degenerare il nostro impatto sull'ecosistema. E quindi io credo che sia molto importante pensare per una città del futuro al rapporto con l'esterno. E quello che stavo dicendo prima, cioè dell'alterità, dell'incontro che ha cambiato le mie convinzioni sulla casa, che quando io ho deciso di andare via da Milano, cercavo una casa grande. Ma ogni anno, quando io mi relazionavo con le persone che intervistavo, ma loro intervistavano, mi dicevano, ma perché vuoi una casa grande dentro? È più importante che sia grande fuori. Dove coltivi il tuo cibo? Io manco ci avevo pensato. Dove metti gli alberi? Dove ti relazioni con gli altri? Dentro? E io ho detto, sì, in effetti no, perché devo farlo dentro? Quindi dove abito io adesso? È una casa molto piccola, no? Puoi testimoniarlo. L'altro giorno abbiamo dovuto dormire nello stesso letto perché non c'era spazio in casa. No? Abbiamo dovuto dire. E quindi la casa è piccola, ma fuori è grande, grande per la Liguria, quindi piccola in realtà, però comunque lo spazio è esterno. E questa relazione con l'esterno, io ho notato, poi magari muoio domani, speriamo di no, però che sto molto meglio oltretutto. Per esempio, una cosa che mi colpisce nella relazione che ho con gli amici che vivono in città quando vengono a trovarmi è che hanno freddo a casa mia, perché chiaramente sono abituati a stare dentro. Io a casa mia ho 15 gradi, la sera accendo la stufa ne ho 18, 19, 20, ma io sono abituato di giorno, se non piove, e quindi la maggior parte delle giornate piove, ma se pensate alla percentuale con le stagioni, la maggior parte delle giornate, anche se non c'è il pieno sole, come sto fuori. C'è una relazione esterna e quindi non mi devo scaldare, perché mi scaldo con il movimento del corpo. E questa è una cosa, secondo me, che ci deve far ragionare sul futuro. Pensate anche alla situazione che stiamo vivendo. Io sono molto felice di essere qui e non voglio creare uno psicodramma collettivo. In questo momento non è il massimo che noi siamo dentro, ma fuori abbiamo freddo, perché è tardi. Forse, e voi direte, ma eravamo tutti a lavoro. Insomma, è tutta una questione di relazione con l'interno e l'esterno, legata a come abbiamo costruito il nostro modo di vivere. E l'Italia, perché, e poi ti lascio subito la parola, perché uno potrebbe dire, quello il discorso che fa è un discorso assurdo, no? Ma in Italia la maggior parte delle persone non vive in città. Cioè, le città sono pochissime in Italia. Provate a pensarci, e poi ti lascio subito la parola. Quali sono le grandi città italiane? Milano, Roma, cioè Genova già è strana, Torino, Napoli, Palermo, ma Palermo la gente sta in casa molto meno che a Milano, no? Sta molto più fuori. E quindi tendenzialmente, cioè, è possibile un ripensamento dello spazio esterno. E quindi io quello che cerco di teorizzare insieme a tanti altri, perché non sono assolutamente l'unico che dice queste cose, è che dobbiamo pensare a una città del futuro che sia molto più verso l'esterno, anche sulla questione educativa, pedagogica. Cioè, è assurdo che noi rinchiudiamo i bambini in queste aule. Cioè, se io penso a come io ho costruito il mio studio, sempre rinchiuso in queste stanze, ma perché? E il cambiamento, secondo me, può nascere proprio da una disobbedienza che dobbiamo fare tutti assieme. Io sto cercando di far disobbedire i miei studenti e non ci riesco, perché chiaramente, come dice David Graeber, la burocrazia non agisce soltanto nel momento in cui ti impone una norma, ma crea degli spazi morti nella capacità di immaginare. Dice dead zone of imagination, diceva, perché purtroppo è morto l'anno scorso. Ed è proprio quello che sta succedendo, perché quando tu dici, vabbè, è vero, ma vediamoci in un parco a fare lezione, alla fine non si fa. L'anno scorso su 136 studenti, quelli che sono venuti a fare lezione dall'esterno, distanti, con le mascherine, quindi non c'era rischio, eravamo in 18, 17. E quindi dobbiamo partire da qua, secondo me, nel ripensamento proprio della gestione degli interni. Poi è ovvio che oggi che ci sono 2 gradi stiamo dentro, ma non è sempre così. C'è una cosa, tutto il secondo capitolo di Perdersi è tutto sulla storia di come di questo passaggio dalla città come luogo dove la gente stava all'esterno a una città in che è diventata tutto interno. Perché in realtà, se guardate le foto anche di Berlino, Parigi degli anni 30, anche prima della fine dell'Ottocento, c'era moltissima gente fuori, cioè le strade erano pienissime. Per cui anche in luoghi, per esempio Parigi, che era un posto che non è un posto mediterraneo, è un posto freddo, però la gente viveva moltissimo fuori, cioè sempre. Questo perché sicuramente, appunto, anche le città erano più i luoghi dell'aggregarsi che i luoghi del chiudersi, no? E poi, per esempio, le classi povere avevano una stanza in cui dormivano tutti, no? E quindi aveva molto più senso usare il fuori. Palermo, che era una città comunque molto popolosa quando è arrivato Garibaldi, aveva centinaia e centinaia di cortili. E quando è arrivato Garibaldi, la prima cosa che hanno fatto li hanno demoliti, perché erano dei luoghi fortissimi di non controllo. Cioè la gente dormiva in cortile, non dormiva in casa, no? Per cui c'era un sistema, le città erano fatte con un sistema tale che consentiva tranquillamente la vita all'aperto, no? A Parigi c'erano gli impasse, per esempio se andate in Giappone, il Giappone che è un posto non è un posto mite, però erano più importanti i rogi, che sono le stradine dietro. Beh, la Mongolia, le case, no? Piuttosto, sì, cioè in qualche modo le città stesse erano città concepite moltissimo per la vita all'aperto, no? E questa cosa si è completamente assottigliata, non è che si è assottigliata per caso, cioè quando sono arrivate le grosse istituzioni del potere, la prima cosa che è successa con le tasse è che hanno sfondato la città per fare le fognature, hanno sfondato la città per consentire il passaggio del traffico, no? E quindi in qualche modo le città sono diventate delle città per la circolazione, mentre prima erano città per lo stare. Quindi questa è la cosa impressionante, questa storia. Addirittura a un certo punto i medici diventano quelli che hanno veramente il potere sulle città, a metà dell'Ottocento, e loro applicano le città alle scoperte sulla circolazione del sangue. E dicono che come il sangue deve costantemente circolare, così in città non ci si può fermare. Cioè l'unica cosa che puoi fare è andare in giro. Per cui uno dei gesti rivoluzionari oggi è prendersi la sedia e stare fuori dalla porta. Cioè c'è un ritorno, per esempio, al marciapiede, che sarebbe fondamentale, soprattutto in epoca di Covid. Cioè in qualche modo è proprio ci sono alcuni spazi che possono essere ripresi anche domani, no? Perché comunque le città, soprattutto in Italia, hanno ancora la memoria spaziale di un altro tipo di vita. Se voi andate in giro per buona parte delle cittadine italiane, le cittadine italiane mica erano fatte per circolare, assolutamente no. Erano fatte perché la gente stesse. Cioè una delle grandi rivoluzioni è stare e non circolare, no? Per cui questa cosa, per esempio, è già in qualche modo una soluzione. Cioè, nel senso che, per esempio, battersi per i diritti di occupazione dei spazi pubblici, battersi perché le persone che stanno in un posto gestiscano il fuori, no? Per esempio, a Parigi sono riusciti, a Parigi, che però è una città che fa retorica di tutto questo, però tu ti puoi prendere cura dei due alberi che hai di fronte a casa tua, no? Oppure del giardino, no? Quindi in qualche modo cioè questa, la cosa impressionante è che noi che in Italia abbiamo molte più possibilità che a Parigi, no? Perché comunque c'è un rapporto col fuori che è molto più semplice, non lo facciamo. Cioè una delle cose impressionanti di questo lavoro sull'urbanistica e sull'abitare che abbiamo fatto io e Andrea è che in qualche modo abbiamo dimenticato tutto quello che si poteva fare per strada, no? Ed è impressionante, perché basta, io una volta ho fatto un lavoro in Giappone con i nonni che raccontavano ai bambini tutti i giochi che loro facevano per strada e che i bambini non facevano più. Cioè in qualche modo c'è una perdita anche della memoria di ciò che potevi fare tranquillamente per strada. Io devo dire, io sono urbano, eh? Io adoro le città, adoro fare aggomitate negli autobus, adoro fare le file alla posta, cioè, i centri commerciali, malato veramente dei centri commerciali. Passo, quando sono in viaggio in Thailandia, passo buona parte del tempo nei centri commerciali. Quando siamo arrivati a Ulan Bator, la prima cosa che mi ha fatto fare è stata: andiamo al centro commerciale. Gli faccio: ma non me ne frega niente, non sei un vero antropologo se non vieni. No, ma non è questo, io non lo faccio perché comunque mi diverte moltissimo vedere dove la gente vive fuori e come, che cosa. Poi magari capisci, la gente non compra nulla, però sta in un posto in cui incontra gli altri. Allora, però questa cosa qui è una, devo dire, la chiave, la cosa più pericolosa è che stiamo dimenticando tutto quello che si poteva fare. E ci sembra che sia proibito, questa è l'altra cosa, cioè ormai c'è una forma di autoproibizione, no? Di cose che invece non sono affatto proibite, cioè se, giocare a ping pong per strada o bocce, ma perché è proibito? Cioè non so, sono una serie di cose che la gente non gioca più per strada, eh? Guardate che questo è gravissimo, cioè in tutte le culture del mondo la gente gioca per strada, a carte, a scacchi, o ci sono i bambini che giocano. Da noi l'idea del gioco per strada è assolutamente... Ma perché ogni cosa ha un luogo chiuso, si danza in una scuola di danza. Certo. E questo, perché qui... Sì. Esatto, ma io sono incredulo che tu abbia detto questo e sono molto perché? Felice. Perché... non stiamo soprattutto Franco, ma neanche io vi stiamo parlando di appunto un passato mitico. Il passato aveva mille problematiche, ma è questa cosa che stava dicendo adesso Franco del ricordo, cioè del non dimenticare tutto. Io sono un fautore dell'ibridazione fra quello che costruiamo oggi, quello che possiamo pensare per l'avvenire e quello però che è stato. Cioè, questo è molto importante. Ci sono cose che abbiamo fatto che ci stiamo dimenticando, sempre per tornare all'esterno e all'ambiente e il fare casa. Un'altra cosa importante che mi è capitato di studiare, anche se non ne sono un esperto, però di queste due cose che dico sono certo, certo perché ci sono degli studi che non ho fatto io ovviamente, è il fatto che noi siamo talmente una specie fatta per stare fuori che l'esterno sappiamo scientificamente che ci cura. Cioè, una delle cose che io riporto nel mio studio sono dei dati di ricerche di svariate università in giro per il mondo, e quindi non delle fake news o della roba presa su Wikipedia, è che quando uno sta male, io non vi sto dicendo che se uno c'ha il Covid guarda un albero e guarisce, quella è una cazzata, però... Se uno è in degenza, questo no, non lo dico perché non lo so, parliamo di quello che... Però sono convinto che se uno è in degenza per un riprendersi dal Covid, da un long Covid, sicuramente se lui è chiuso in un palazzo di cemento e la finestra dà su un altro palazzo di cemento, si riprenderà più lentamente che se ha la possibilità di vedere degli alberi, se ha la possibilità di camminare in mezzo a una foresta, se ha la possibilità di andare a raccogliere delle piante in un orto. Questa del Covid l'ho sparata io. Quello invece che cito nel libro, che sono invece gli studi reali fatti sia in Giappone che in Canada, che in Svezia, che in California, quindi dati di migliaia di dati presi sugli ospedali, è che gli ospedali che hanno la vista sugli alberi, gli ospedali come in Svezia che hanno gli orti dove i pazienti vanno a raccogliere, quindi non è che il paziente va a zappare, ovvio che no, poi a seconda del male che ha e da quello che si deve riprendere, no? Però guarisce prima. Cioè, ci sono dei dati certi che se io mi sono operato al menisco, e menisco no perché non si sta in ospedale, ho fatto un'operazione articolare e ho la possibilità di guardare o vivere con il vegetale, con la pianta, con l'esterno, guarisco prima. Addirittura, sempre di più, adesso non mi ricordo la parola giapponese qual è, o comunque me la ricordo ma non so come si pronuncia, Shinroku o Shinroku, qualcosa del genere. Addirittura gli ospedali adesso, quando ci sono determinate problematiche, ovviamente soprattutto quelle psicosomatiche, depressioni, problemi legati ai disagi della psiche, si prescrivono i bagni della foresta. I bagni della foresta, che uno può leggerli in un modo super fricchettone o post-hippie, che comunque male non fa, oppure da un punto di vista medico, che significa camminare non in mezzo alle macchine, non in mezzo alla merce, ma in mezzo ad altre soggettività, per tornare ai discorsi di prima, cioè alberi e animali, e godere di quello che si sta facendo. E ci sono dei dati certi che si sta meglio, che si sta molto meglio. E io credo che l'esperienza del lockdown che abbiamo vissuto un pochino ce l'ha insegnato questa cosa, perché non credo che siete tutti dei miliardari, almeno ve lo auguro, però magari qualcuno di voi che vive in un appartamento normale ci sarà qua dentro, no? E vivere 4-5 mesi chiusi dentro un monolocale o dentro una casa popolare con altri tre fratelli, cioè non è una cosa semplice non avere il rapporto con l'esterno. Soprattutto quando poi quello che vedi dalle finestre è soltanto cemento. Quindi io credo che una delle chiavi del cambiamento è proprio ragionare su questo e uscire dalle gabbie costruite proprio dall'urbanistica e dall'architettura dell'ultimo secolo. Va bene, c'è una domanda. Sì, cioè un'idea sulle vita nomade. Ma il problema grossissimo della vita nomade è che appunto prevede grandi spazi che non appartengono a nessuno, no? E quindi, quindi la vita nomade è possibile dove sono le grandi pianure, le grandi steppe. È vero che c'è anche una vita nomada del mare, cioè, beh sì, il problema grosso è che sono il sistema che permetteva il nomadismo è abbastanza è tutto in pericolo, perché i confini tra le nazioni, per esempio, sono state la prima cosa che ha cominciato a spezzare, perché i popoli nomadi in genere non riconoscevano un confine, no? Quindi andavano da una parte o dall'altra, quindi che infine hanno sicuramente distrutto. E poi l'altra cosa è che i nomadi non sono controllabili, quindi se tu c'hai un apparato statale o nazionale, i nomadi sono scomodissimi perché non puoi tassarli. È sempre il tema della rottura, no? Come devi rompere il palazzone, rompi anche la regola. Certo. Beh, però il nomadismo richiede anche, secondo me, per esempio, richiede una ripresa di una collettività che nomadizza, che è una cosa che noi non riusciamo più a pensare, cioè a parte i Rom, però pensa oggi a che collettività può inventarsi. Sarebbe divertente se ci fossero delle collettività di mestieri, tutti gli avvocati nomadizzano, oppure tutti gli architetti nomadizzano, oppure... nel senso che oramai potrebbe essere, no? Come c'erano prima sui laghi, sulle colline, sulle monti dei laghi, c'erano i maestri comacini, che erano degli artigiani che erano nomadi, no? Cioè è esistito un periodo in Europa in cui gran parte dei carpentieri, degli scalpellini, andavano in giro, no, cioè, il loro mestiere era proprio andare in giro, no? Gli artisti andavano moltissimo in giro. Appunto, è divertente perché noi abbiamo perso l'idea che non sono soltanto i beduini che erano nomadi, ma anche qui c'era un nomadismo di vario tipo. Certo che sarebbe interessante rivendicarlo. Ma il problema non è la città, no, ma il problema è probabilmente il fatto che gli spazi tra le città sono diventate un'altra cosa. Le città sono sempre esistite più o meno, ma il vero problema è cosa accade quando tu impedisci un'alternativa, no? Cioè sicuramente oggi le città sembrano l'unica realtà. E anche quando vivi in campagna, vivi in una campagna urbanizzata. Ci sono però ancora nel mondo moltissimi mondi che sono mondi a metà. Tra l'altro una delle cose, cioè il punto è che noi abbiamo anche un po' mitizzato il nomadismo. Pensate, leggevo questa cosa ieri che noi, non so, noi, io ho amato moltissimo il libro di Bruce Chatwin, Le vie dei canti, no? Che è un libro stupendo sugli aborigeni australiani, sulle vie dei sogni, no? Però la cosa impressionante è che si è scoperto che lui si è inventato tutto, cioè in realtà gli aborigeni australiani coltivavano, accumulavano, avevano giardini, per cui il fatto che fossero nomadi è un'invenzione che si è fatta lui, ed è stata una delle ideologie che ha permesso ai coloni di cacciare via gli aborigeni dicendo: ma tanto voi non la coltivate la terra, no? Quindi molto spesso c'è anche nel nomadismo c'è una costruzione ideologica occidentale nei confronti di altri mondi. Questo perché sappiamo sempre di più che in realtà nella storia il nomadismo molto spesso si è anche accoppiato all'agricoltura, cioè gli stessi popoli nomadi coltivavano stagionalmente, ma coltivavano, cioè l'agricoltura non è una rivoluzione legata alla città. L'agricoltura era qualcosa scoperto molto prima e poi le città se ne sono appropriate col lavoro forzato degli schiavi, praticamente. Basta? Basta, io aggiungo però una cosa sul nomadismo, perché a me è una cosa che interessa. Io credo che ci siano delle nuove comunità nomadi e che c'è un nomadismo contemporaneo interessante, però dobbiamo fare una distinzione fra un nomadismo d'elezione, quindi scelto, possibile, e il nomadismo, che invece è quello che costringe tantissime persone a spostarsi perché scappano da una problematica che è legata a una crisi climatica, a una guerra, ed è quello che sta succedendo ancora in questi giorni, no? Un po' dappertutto. E quindi diciamo che c'è un nomadismo che è quello che, ne so, adesso io ho iniziato a fare una ricerca proprio su queste cose, che ci sono un sacco di giovani occidentali, però ovviamente privilegiati, che hanno i documenti, che hanno il welfare state familiare, che si comprano un camion a Berlino e che poi vivono in giro per il mondo. Ci sono un sacco di persone che fanno una scelta, per esempio, di vita, visto che si può lavorare sempre più da remoto, e quindi che vanno in giro e vivono nomadi. Conosco una persona che vive in barca, e non sei tu, che vive in barca e fa e lavora a livello digitale. Si è montato un'antenna satellitare autocostruita, bla bla bla, e lui lavora facendo siti e facendo cose di questo tipo. Quindi c'è sempre di più un'impronta nomade, però chiaramente c'è questa grande differenza fra chi se può permettere, chi no, ma questo un po' in tutto, no? Perché è ovvio che non è semplice essere nomadi per le cose che diceva Franco. Poi c'è la questione invece, e poi veramente concludiamo, però, che non volevo lasciare totalmente soltanto a battuta, visto che siamo riusciti a essere seri, Franco, forse per la prima volta da quando io e te parliamo assieme. Esatto, ma io sono sempre stato vecchio, quindi eri tu quello che... Esatto. No, però questa cosa del ritorno alle campagne, no? Che diceva Frank, invece io vorrei testimoniare il fatto che sì, sicuramente è un qualcosa di minoritario, non è la scelta della maggior parte delle persone, però negli ultimi 10 anni sono tante le persone, le donne, gli uomini, giovani e meno giovani, che hanno scelto di ricostruire un abitare in molti borghi d'Italia che sono in stato quasi di semiabbandono. A volte lo fanno bene, a volte lo fanno male, ci sono esperimenti positivi, esperimenti negativi, come in tutto, come anche nelle città, però io credo che ci sono un sacco di cose interessanti, soprattutto per la questione proprio della produzione alimentare sinergica, biologica, senza etichette, no? E credo che sia qualcosa di molto interessante e da tenere in considerazione. Oltretutto ha a che fare anche un po' con il nomadismo, perché per esempio in Spagna, luogo che tu dovresti un po' conoscere, ci sono proprio le collettività di campagna che lavorano con le collettività di città, e quindi creare anche una relazione dove dopo 10 anni che sto in città sono stanco, vado nelle terre collettivizzate, quelli che stavano in campagna se ne vanno in città, ma soprattutto si scambiano merci al di fuori del mercato globale, capitalista, e quindi un biologico che arriva direttamente in quelli che noi chiamiamo gruppi di acquisto solidale o economie alternative. Quindi ci sono cose che si muovono, sono sicuramente minoritarie e non sono quelle vittoriose, ma sono quelle che a me interessano particolarmente. Grazie. Se volete potete scrivere a lui.